Well, it's an ancient way of remembering the Buddha's teachings to before it was written down. È un antico modo per ricordare gli insegnamenti del Buddha prima che fossero effettivamente scritti. But anybody who knows the power of singing together. Ma tutti conoscono un po' la forza del cantare in gruppo. Yeah, it forms community. Immediatamente forma un senso di comunità. There's a man who comes to the meditation center, to our center in Wales, and he does sound therapy. C'è un signore che viene al nostro centro di meditazione nel Galles e lui fa terapia del suono. And he was telling me about a story of a Benedictine monastery in the south of France. Mi raccontava la storia di un monastero benedettino nel sud della Francia. He was a more modern sort of abbot, and all this chanting, you know, was a waste of time. We could study and pray, so they virtually got rid of all that chanting, you know, at 3, 4, 5 hours every day. Quindi è arrivato un abate un po' più, come dire, moderno, che ha eliminato questa abitudine della recitazione o del canto che facevano 5-6 ore al giorno, pensando che fosse una perdita di tempo, perché potevano piuttosto pregare o studiare. Mm. And the community began to break up, the monks left, there was all sorts of problems, and they didn't know what had happened really. E poi la comunità ha cominciato proprio a, come dire, a andare a pezzi, si dice in italiano. Vabbè, i monaci hanno cominciato ad andare via, a disgregarsi, quella era la parola che cercavo. A disgregarsi, non sapevano quale fosse il motivo, non riuscivano a capire. And they called him this famous therapist, it seems. E poi allora hanno chiamato questo terapeuta famoso. And his almost, I believe, his almost first question was, you know, what do you do during the day? And when he found they weren't chanting together, then he pointed that to that as being the reason for the loss of community. E quindi ha chiesto, una delle prime domande che ha fatto era, come mai, cosa fate durante il giorno? Quando ha scoperto che avevano interrotto questa abitudine del canto, allora ha capito che quella era da ricercarsi lì la causa di questa perdita del senso di comunità. And consider what, you know, generally speaking, what a group of people might do when they get drunk. Quindi potete immaginare, pensare a cosa fa in generale un gruppo di persone quando si ubriaca. They sing. Cantano. So there is a reason for chanting together. Quindi c'è un motivo che sta dietro questo cantare o recitare insieme. Mm. And interestingly enough, in my experience at the center and also with different groups. Quindi nella mia esperienza sia nel centro che con diversi gruppi. At least one in eight people can't sing. C'è almeno una persona ogni 8 persone che non riesce a cantare, che non sa cantare. At least. Almeno. They're off tune. Sono stonati. And this, of course, when you have a good ear for music, this truly grates on the ear. Quando uno ha un buon orecchio per la musica, penso gratta, come dire, sull'orecchio. And of course, one has to open one's heart. This is the human community. This is uno deve aprire il cuore e dire, questa è la comunità umana. There will always be disharmony. One has to embrace it. E ci sarà sempre un po' di disarmonia. Uno non può far altro che abbracciarlo. As to Pali, my own feeling is that, you know, we need some connection to a very ancient tradition. Quanto riguarda la Pali, la mia opinione è che abbiamo bisogno di un qualche collegamento con una tradizione antica. At Amaravati and the Forest Sangha, they've translated it sometimes as chant Pali, sometimes in English. L'Amaravati, il Sangha della foresta, l'hanno tradotto i canti, e a volte cantano o recitano in Pali, altre volte in inglese. Mm. And they have lots of chants. E ne hanno tanti di questi canti. The chant I do here in the morning is shortened from the one that I do at the center. E quello che abbiamo fatto qui al mattino è una versione ridotta di quella che faccio al mio centro. At the center it lasts about 20 minutes. Quella del centro dura più o meno 20 minuti. And it's always the same. Ed è sempre uguale. So if if after one or two days you don't know what you're chanting, it's because you've not read the English. E quindi se dopo uno o due giorni uno non sa quello che sta recitando è perché non è andato a leggersi la versione in inglese. And when one chants, one is much more in contact with the heart content rather than the intellectual content. Quando uno recita è molto più in contatto col contenuto del cuore che non con il contenuto delle parole. So as you're chanting, for instance, the qualities of the Buddha, it may be that gratitude arises in the heart, you see. Quando uno recita le qualità del Buddha, allora è facile che questo faccia scaturire gratitudine nel cuore. And there is one very good reason for a repetition of this sort. E c'è un'altra ragione importante per questo tipo di ripetizione. When I used to live with my teacher, we chanted for half an hour every day the same chant, day in, day out. Quando stavo con il mio insegnante, il mio maestro, noi recitavamo gli stessi canti tutti i giorni per mezz'ora, tutti i mezz'ora, yeah. Sempre lo stesso. Sempre lo stesso. And at first it would fill me with a lovely joy. All'inizio mi riempiva con una bellissima gioia. Then I got bored. Poi mi sono annoiato. And I thought, why can't we chant something else? E io ho detto, ma perché non possiamo recitare qualcos'altro? And of course I didn't say, being a good junior monk. Ovviamente non l'ho detto perché ero un monaco novizio. And of course I realized that my boredom was because before I had indulged this joyfulness. E allora mi sono accorto che la mia noia era dovuta al fatto che precedentemente io avevo come dire, goduto di questo piacere del recitare. So I continued to just chant. Ho continuato semplicemente a recitare. And then suddenly there was just chanting. E poi improvvisamente è cominciato ad esserci solo recitare. So and this wheel keeps returning, you see. Ed è una ruota che continua a ritornare. Sometimes I feel the joy, sometimes I feel the boredom, and some wonderful times I just chant. A volte sento la gioia, a volte sento la noia, e a volte semplicemente recito e basta. Is it ever notated? Sorry, just occurs to me. Is it? Notated. Yeah. It was scritto in musica. Yes, just in the groups and has well, no, because unfortunately my chant is a little unique. Quindi chiedeva se è stato trascritto in musica, no? Il canto. E Bhante dice no, sfortunatamente il mio è unico, una versione unica. The reason was this, that my teacher was utterly and completely tone deaf. Questo perché il mio maestro era completamente, assolutamente, così si italiano, non proprio stonato, ma che non riconosce le note. Le note. Tone deaf. Le note. Stonato, in italiano forse non c'è. In other words, he couldn't chant, he just couldn't. Non riusciva assolutamente. So, I began to weave a tune around his drone, like a bagpipe. Quindi ho cominciato a tessere una sorta di melodia intorno al suo questo canto atonale, come fosse una sorta di bagpipe, sarebbe la cornamusa che fa il cordone. Mi And there was one wonderful moment. C'è stato un momento meraviglioso. We had been invited to a commemoration of a monk, a Tibetan monk who had died. Eravamo stati invitati a una commemorazione per un monaco tibetano che era morto. And we were in the hall and my teacher, being the sort of monk he is, walked straight up and sat right at the front, facing the audience. Quindi siamo entrati in questa sala e il mio monaco è andato, il monaco con cui era, è andato dritto a sedersi davanti al pubblico. In certain circles he was quite famous. Era abbastanza famoso in certi circoli. And I of course followed him, you see. Anch'io l'ho seguito naturalmente. So when it came to the point, he said to me, "We'll chant the discourse on Metta, the Metta Sutta." E quando è venuto poi il nostro momento, ho detto, "Beh, noi reciteremo il Metta Sutta." So he groaned and I wheezed. E quindi lui ha fatto questo groan, probabilmente questo groan is like a lui ha fatto il cordone praticamente come la corna muta e Bhante Bodhidharma ha fatto invece tutto il ricambio. And a woman came up afterwards and said, "Oh Bhante, that was the most beautiful harmony." E la donna dopo che si è avvicinata ha detto, "Bhante, quella è stata la melodia così meravigliosa." Musician. Allora, l'altra è: cosa sono i sogni o stati onirici nella tradizione Vipassana e nelle parole del Buddha? So what are dreams or dream states in the Vipassana tradition and in the words of the Buddha? Now remember that the Buddha's only concern is suffering. Quindi ricordate che l'unico interesse del Buddha era la sofferenza. And remember that patterns of thought are also conditioning. E ricordate anche che gli schemi di pensiero sono anch'essi condizionati. Thought is a conditioning factor. O sono condizionanti, quindi, perché il pensiero è un fattore condizionante. Now, what he says about dreams is that they don't have any great karmic effect. Quello che dice dei sogni è che non hanno un grande effetto karmico. So one might dream of a murder, but it has very little in effect within the as a conditioning effect in the heart. Quindi uno potrebbe sognare un omicidio, ma questo ha un effetto condizionante minimo sul cuore. So he wouldn't worry about dreams at all, I think. Lui penso che non si sarebbe assolutamente preoccupato dei sogni. There's nothing in the scriptures which hints that he went into a psychoanalyzing dreams or anything. Non c'è nessun punto nelle scritture dove sia indicato che lui sia abbia cominciato a psicanalizzare i sogni. Non c'è nulla di quel genere. Yeah. Would we say for the Buddha then that what we think of as the unconscious or the subconscious would be just part of consciousness? Possiamo dire che il subconscio, l'inconscio, quindi per il Buddha è solo una parte della coscienza? It's very difficult to talk exactly in those terms of there being some sort of something down here which is the unconscious or the subconscious. È molto difficile parlare in questi termini, come se ci fosse qualcosa qui che riteniamo essere l'inconscio o subconscio. It suggests some sort of store or some that it actually exists. Perché questo darebbe l'idea che ci sia una sorta di magazzino, no? Che effettivamente esiste. My understanding of the Buddha's position is that it's much more to do with immediate potential within a given moment. La mia comprensione degli insegnamenti del Buddha è che si ha più a che vedere con un certo potenziale in un dato momento. It depends on the stimulus and then something arises. È come se ci fosse uno stimolo esterno, poi qualcosa sorge. The only thing which you could perhaps point to as being some sort of understanding of the subconscious, he talks about the anusaya. L'unica cosa che potrebbe in qualche modo essere legato a questa idea dell'inconscio è quello che lui chiama anusaya. Anusaya. Because the word translates as latent tendencies. Che corrisponde alle tendenze latenti. And these latent tendencies manifest as defilements. queste tendenze latenti si manifestano come inquinati mentali. And the defilements manifest outwardly as unwholesome actions. E questi inquinanti mentali si manifestano verso l'esterno come azioni non salutari. So perhaps one could argue that there is some potential somewhere. Quindi uno potrebbe dire che forse c'è un certo potenziale da qualche parte. Now, having said that, in the later work, they say that the mind, this is the Abhidhamma, the mind from the point of consciousness moves into what they call Bhavanga. Invece poi nei lavori successivi, nell'Abhidhamma per esempio, allora si dice che la mente a un certo punto, la coscienza, può scendere a un livello inferiore che è chiamato il Bhavanga. We would call that the unconscious. E quello noi lo potremmo chiamare l'inconscio. Or unconscious state. Uno stato inconscio. The actual word means a factor of becoming. La parola stessa letteralmente significa un fattore del divenire. And in later Buddhism, this Bhavanga, this whole idea, did become store consciousness, the alaya vijnana. E quindi è diventato nei lavori successivi, diciamo, questo può essere considerato, questo Bhavanga, una specie di coscienza immagazzinata. E poi ha detto una parola in pali che deve essere alaya vijnana. Store consciousness, like a store. Mm-hmm. Sì. So, quindi Vignana la coscienza, lei sarà questa coscienza un po' immagazzinata. Quindi c'è una sorta di magazzino. In later Buddhism, yes. In later Buddhism. Nel buddismo successivo. In Mahayana. Nel Mahayana. They have this idea. Senza perché? Perché mi viene l'esempio di di solito può accadere che nei bambini accadono dei traumi grossi, dove vengono completamente dimenticati, ma poi andando avanti nella vita possono accadere degli agenti esterni che tac vanno a riprendere questo evento, questa memoria in questo non so, magazzino, no? So he's mentioned the example of children who maybe are victims of a trauma when they are children and then they completely forget about it for some time, then when the conditions are ripe it comes up. So he's saying this might be like a storage place where you put memories. Yeah. It's just that in the scriptures there's no I don't think you'll find a mention of that sort of idea. Sì, so che nelle scritture questo tipo di idee non è proprio menzionato. And I think the reason is that the Buddha is again only concerned with suffering which is action. Io credo che sia per il fatto che il Buddha veramente era solo interessato con la sofferenza, che è un'azione. But as I say, there is this understanding of latent tendencies. So c'è questa teoria delle tendenze latenti. And that's one of his words, anusaya. E questa parola anusaya è una delle parole del Buddha. But he doesn't really go into it at all. Non è che ci entra nel merito. Was that it? Okay. Would you recommend we read anything? Perhaps not even explicitly to do with the Dhamma. Like wonderful essay on your website. Ah, yes. Before, of course. I remember you mentioned a book in one of your talks, but the name escapes me. I hope I got it right. Yes. Is it you? Okay. Okay, can you say? Just asking about the reading time matter. Reading matter. Sì, quindi chiedeva cosa come. So, is he asking if you read anything during a retreat? No, può essere utile leggere libri anche non necessariamente di Dhamma, quindi per la propria pratica così. E poi menziona, non so, uno scritto che lui ha scritto sul suo sito. Che Bhante ha scritto sul sito, e poi ha detto, parlato anche di un libro in uno dei suoi discorsi, quindi chiedeva informazioni su queste cose. Yeah, I mean, books are, what would you call them? Books are institutionalized talks. Sì, I libri sono come dei discorsi istituzionalizzati. Specifically, the question is not clear. What I meant was actually like specific. a book? Well, I have on my website. I have, you know, I've mentioned the basic books that you would want to read. Okay. But there are so many websites now and so many books. It's a bit sort of mind-boggling. Quindi sul mio sito ho scritto un elenco di libri consigliati, però ci sono talmente tanti libri adesso, tanti siti, che è un po' quasi confusivo per la mente. I don't know, even one or two books that have been important to you, like yes, the one that you're referring to. Yeah, well, there's, I mean, I've got them on the ones that are important to me are on my website. Okay. Yeah. And they are standard texts. Okay. No, that's yeah, they are standard. I mean, the there's about three that immediately come to mind. What the Buddha Taught by Rob Paul and Rahul. Hmm. Huh? In This Very Life. The Heart of Buddhist Meditation. These are all on my website. And in a sense, there's not been much of an improvement on those. Okay. You know. Quindi tre libri che vi vengono in mente adesso sono anche sul nostro sito. Tra l'altro, uno è fotocopiato qua fuori, se vuoi prenderlo. Okay. Sono ha detto allora the Buddha's words, no, what the Buddha taught, gli insegnamenti del Buddha di Rahula, Valpola Rahula, poi il cuore della meditazione buddista di Nyanaponi Katera e in questa proprio in questa vita di Mahasi. Più pandita, Mahasi is unreadable. Is it? Yeah, it's all commentary, Prabhupada. Something outside the immediate tradition. I know you mentioned Iyengar. Did you remember the other guy? We were talking about because Gautam is from India, and therefore in the Hindu tradition, there's Nisigalatha Maharaj. I am that. Have you come across that book? Mm-hmm. Io sono quello. Nisigalatha, which is a real Maharaj. It's a real spiritual classic, you know. Classic. And who's that? Who's the mystic down in South India? Aurobindo. No. Oh dear. You must. I'm sure you know. Krishnamurti. Krishnamurti is very intellectual. I wouldn't. Ramesh Balsekar. Ramesh Balsekar. He was a student of Nisigalatha Maharaj. Pointers. Thanks. Yeah, it'll come to me. His meditation was, "Who am I? This man I'm trying to remember," which is very obviously Buddhistic. Who am I? Yeah. Actually, the Buddhist thing would be more like, "What am I?" or "What is it?" Questo particolare filosofo indiano, di cui non ricordo il nome, chiede la domanda, cioè i suoi insegnamenti sono basati sulla domanda chi sono io, mentre invece una domanda più buddista sarebbe cosa sono io. And he was, you know, he wasn't a learned person or anything like that. Non era una persona accolta o uno studioso. Arunachala, the mountain Arunachala, is any, no? Does that? Wait, no. It'll come to that one. Quello di chi sono io è Mahashi. Mahashi, no, Mahashi, no. Don't worry, it'll come. Gli arriverà. Strange, I can't remember. Allora, l'altra domanda. Can you talk about self-care? I read somewhere that the Buddha... that is advised that you stay away from toxic people. Can you comment? Also, maybe it's two different questions. Then how many hours a day do you meditate? Me? 20. Honestly. Cominciamo con la terza domanda. Quante ore al giorno mediti? E lui dice... Remaining four. What about, well, I have to sleep. 20 ore al giorno. E le altre 4 dopo. A nun has just written to me. She's an English nun and... She joined a monastery in Burma, which is sort of meditation all the time. Mi ha scritto una monaca inglese che è andata a un monastero in Birmania e lì è praticamente meditazione continua sempre. Mm. And in the Mahasi centers, a person may continue for quite a long time just meditating, like we've been doing, day in and day out. Quindi in questi centri masi della Birmania una persona, non adesso della Birmania, nei centri masi uno può continuare a meditare continuamente per delle giornate intere, come abbiamo fatto qui. The Mahasi Goan advice was, if nothing happens in 10 weeks, nothing will. Quello che diceva Mahasi è, se non capita nulla in 10 settimane, allora non capiterà più nulla. In other words, you need a break. In altre parole, dopo 10 settimane ti serve una pausa. And the normal, well, I don't know about normal, but the basic routine, I think, for most meditating monks, not all monks meditate, or nuns, but for those who meditate, on an ordinary day, would vary between 3 and 5 hours. Quindi la routine normale per monaci che meditano, perché non tutti i monaci meditano, sarebbe dalle 3 alle 5 ore. So this particular nun had just emailed me, she'd been in Sri Lanka and she met a German nun there who lives in Sri Lanka. Quindi questa monaca inglese che mi ha scritto era appena tornata dallo Sri Lanka, dove aveva incontrato un'altra monaca tedesca che era lì, che meditava. And her life is very busy. She's constantly involved with the local community. She goes out for dana, you know, receiving food and so on. Quindi ha una vita molto impegnativa, perché comunque è molto coinvolta nelle questioni della comunità. Va a chiedere il dana dalla comunità. Offer dana. Sì. Yeah. A chiedere le offerte praticamente. No, she doesn't ask for it. Oh, I see. Yes, she's asked to go for dana. She doesn't ask for it. She asks. Lei va a offrire dana. No. She is asked to go for dana. Gli chiedono di andare a offrire, a prendere dana. Sì. Okay. So, and she said to this particular nun that I know that you know, she would go away for a month or 2 months somewhere else per year to do meditation. Allora, questa monaca tedesca ha detto quest'altra che lei doveva andare via 1 o 2 mesi all'anno per poter meditare. She goes somewhere else. Ma deve andare da un'altra parte. So most monastics would work on that sort of basis. Quindi la maggior parte dei monaci o delle monache dovrebbero lavorare, cioè funzionano un po' in questo modo, yeah, che devono andare via per fare i loro ritiri di meditazione. Yeah. Yeah. So I mean, I personally try and do that. Every winter I try and get 2 months to myself. Quindi io cerco di fare così. Ogni inverno cerco di ritagliarmi 2 mesi per fare il mio ritiro. So for 2 months I try to regain my sanity, and for the rest of the year I lose it. Per 2 mesi cerco di riguadagnare la mia salute mentale, poi per il resto del tempo lo perdo. Self-care. Ah, self-care. Again, it's one of these distinction between indulging oneself in that sort of wrong way and caring for oneself. E quindi è qui importante fare questa distinzione tra l'indulgere nelle cose, nei piaceri, e occuparsi giustamente di se stessi. Yeah. So it's up to the individual to decide when they're indulging themselves and when they're actually just taking care of themselves. Quindi è l'individuo che deve decidere quando si sta lasciando andare a un certo piacere, per esempio, oppure quando si sta occupando di se stesso. You know, for instance, take the area of retail therapy. What do you mean by retail? When you feel sad, you go and buy something. Ah, ok. Che tutta questa area, questo campo della terapia dei saldi praticamente, cioè quando tu ti senti depresso vai e ti compri qualcosa. So this shopaholic, as you say. So yes, but personally I would err on the side of indulgence. Well, if I don't know whether this is self care or indulgence, I would err on the side of indulgence. Sì. Però se io dovessi proprio dire che cos'è questo andare per saldi, diciamo, gratificarsi in questo modo, direi che più va più sul lato dell'indulgere, del lasciarsi andare ai piaceri, piuttosto che occuparsi di se stessi. Yeah, because that's my nature. Others would be more ascetic. Altri sarebbero più ascetici. Yeah, any other? So this the Buddha advised that you stay away from toxic people. Can you comment? Yes, well, you know, that's, I mean, parents are very aware, you know, very afraid of their children getting involved in wrong company. Forse non ho tradotto. Comunque Buddha suggerisce di stare lontani dalle persone tossiche. Bhante dice sì, i genitori sono molto preoccupati rispetto alle persone che frequentano i figli, cattive compagnie. Che i figli frequentino cattive compagnie. And if we have friends who behave in ways which we know are not wholesome, then whether we like it or not, you know, they draw us into that unwholesomeness. You have to be careful, you know. Quindi se noi frequentiamo degli amici e sappiamo che hanno dei comportamenti non salutari, beh, dobbiamo stare attenti perché è facile che ci trascinino in quella direzione. See, I have there's a person who comes to the center who is a very good meditator. C'è una persona che viene al centro ed è un ottimo meditante. But his best friend sells and smokes pot. Ma il suo marijuana. Migliore amico produce e vende la marijuana. So sometimes he smokes pot. E quindi anche lui qualche volta fuma marijuana. So that's it. That's the whole thing about good companionship. In fact, the Buddha says good companionship is the whole of the spiritual life, which is interesting. E quindi questa è una cosa molto importante. Livelihood. E infatti Buddha dice la buona compagnia è tutto. È tutto nella nella sana. Is the whole of the spiritual livelihood. È l'interezza del modo di vivere spirituale. Interesting. And Ananda makes one of these statements again, and he says, I think that this spiritual companionship is half the spiritual livelihood. Ananda poi fa in un'altra occasione questo commento e dice la buona compagnia, quindi la sana compagnia, rappresenta la metà di questo sano modo di vivere spirituale. Oh no, Ananda! Di nuovo gli fa no, Ananda. No. It's the whole of the spiritual life. E poi dice no, è tutta la vita spirituale, quindi non solo metà, ma tutta. Non so se si è capito. And I think that you may find that you do move away from certain friends as your spiritual life grows. It seems to happen sort of naturally. Non so se vi siete accorti che in maniera quasi naturale uno si allontana un po' da determinati amici con lo sviluppo della propria vita spirituale. And that's usually accompanied with new friendships. E di solito questo è accompagnato da nuove amicizie. Sì. Ha nominato altre esperienze di meditazione Zen. Che cosa ha fatto sì che scegliesse Vipassana? So this is one question. So you mentioned other experiences, meditation experiences like Zen. How is it that you chose Vipassana? You know, sometimes you hear of people going the other way from Vipassana to Zen. Sì, a volte si sente di persone che vanno nell'altra direzione, cioè che passano dalla Vipassana allo Zen. The only thing that happened to me was that I was very, very happy with Zen. Quello che è successo a me è che io ero molto contento con lo Zen. And it was just out of interest that we had a Burmese monk staying in Birmingham where I was living. Così è una cosa. Come dire, nata da un particolare interesse che abbiamo avuto un monaco birmano che stava in Birmingham. Che viveva lì a Birmingham in the monastery. No, well, he had his own vihara. He had his own house, just a house. Quindi era lì in una sua casa a Birmingham. So you know, I would go along just with a little interest. E quindi io andavo da lui così perché ero interessato. And again, just out of interest, I did a retreat with Ajahn Sumedho. E anche così spinto da un certo interesse ho fatto un ritiro con Ajahn Sumedho. Now he's referred to as Lumpo Sumedho. Lumpo? Yeah. Adesso si è nomi. Ajahn, yes, Ajahn means teacher, Lumpo means daddy. Ah, prima era chiamato Ajahn, vuol dire insegnante, adesso lo chiamano Lumpo Sumedho, che significa papà. Papà. Later on, when he gets older, they'll refer to him as Lumpi, which means granddad. Tra un po' lo chiameranno Lumpi, che significa nonno. He's already retired. He's retired, yeah, but they still call him that. So, what happened was, Zen begins by keeping you at the full extent of the six sense doors. Quindi quello che succede è questo, che lo Zen fa in modo che tu ti apra pienamente a tutte le sei porte dei sensi. That's why you keep your eyes slightly open. You don't look around, but you keep them open. Per questo tieni gli occhi aperti. Non ti guardi intorno, però li lasci un po' aperti. But with Theravada, with the Vipassana, I was drawn directly into myself and to let go of the outside world completely. Invece nella Vipassana ero stato invitato a guardare completamente dentro di me e lasciare andare tutto il mondo esterno. And this just, what can we say, opened me up to myself in a way that Zen had not done. E questo mi ha aperto a me stesso, mi ha dato un'apertura su me stesso, in un modo che lo Zen non era riuscito a fare. And then very shortly after that the Mahasi came with my teacher Ujjanaka. E poi dopo di poco tempo è arrivato l'approccio Mahasi con il mio insegnante Ujjanaka. So whereas Ajahn Chah and Ajahn Sumedho was a very soft, easy way, not so soft, not, you know, it was, yeah. Ajahn Chah, Ajahn Sumedho erano un approccio un pochino più morbido. Ujjanaka was ferocious. Invece Ujjanaka era feroce. And it suited me very well. E questo era molto adatto. Very macho. And I did very well. Io sono andato molto bene. Sì. So I just moved over then. Quindi a quel punto mi sono spostato. Ha fatto molte volte metta. È una pratica generale o una sua scelta? So you, many times you did the metta practice. Is it your own choice or is it a general practice? No, it's a general practice in Theravada. No, è una pratica generale nella tradizione Theravada. Some will stress it more than others, but it's always there with Vipassana. Alcuni gli danno più importanza di altri, però è sempre presente con la Vipassana. In the Mahasi tradition, you would do pure Vipassana until you had made the level of non-returner. This is the first level of sainthood. Nella prima, nella Vipassana pura, uno farebbe solamente Vipassana fino a quando non ha raggiunto il livello di colui che non ritorna, which is the non-returner. The stream entrance. Yeah, stream entrance. Sì, sì. Yeah, if you're going the classic Mahasi way. Quindi solo quando uno appunto ha raggiunto almeno il primo livello di illuminazione, colui che entra nella corrente. Then you would do metta into the jhana. A quel punto si farebbe metta, si fa la pratica di metta per entrare nei jhana, negli assorbimenti. First of all to develop the heart, but also to develop enough concentration to go for the next path. Per sviluppare il cuore, ma anche per sviluppare abbastanza concentrazione per entrare nel secondo livello. This suits the person who is a steamroller. Okay. No steamroller? You know these big machines that they run over the road to flatten it? Quindi questo sarebbe un approccio, una pratica adatta a quelli che possono essere considerati come, se non mi viene in italiano, steamroller, compressore, no, quelli che appiattiscono l'asfalto sulle strade, sì, compressore, rullo compressore, schiacciasassi. Yeah, no, metta is always considered very important. Metta è sempre considerata molto importante. Because it's the path, see, right understanding, right attitude. Perché è nel sentiero, no? C'è il, sì, nello duplice sentiero, quindi c'è la giusta comprensione e poi il giusto atteggiamento. So in your daily practice, always after the vipassana, even you know 5 minutes, just something. Nella vostra pratica quotidiana fatelo sempre, anche solo 5 minuti dopo la sessione di vipassana. Some teachers say 5 minutes before because it helps to collect the mind. Alcuni insegnanti dicono di farlo i primi 5 minuti perché raccoglie la mente. Sì, vabbè. Is there any other way to bring children to the Dhamma? Any other way? Is there any other way? Mostly the other way. Other than by example, you know. I mean, it says other than by example. Yes. Oh, how do you mean? But if I come back from these 10 days and I'm a wonderful mother for a week, 2 days, then the kids say this is good, this meditation. So that's example. But is there any other way to? Quindi c'è qualche modo, quali modi ci sono per portare i bambini verso il Dhamma, oltre a quello di dare buon esempio, perché dice io torno a casa e per una settimana, forse un giorno, sono una buona madre, allora loro possono dire, beh, allora ha questo effetto la meditazione, però c'è qualche altro modo? That is certainly by far the best. Sicuramente quello è assolutamente il migliore dei modi. I don't know, perhaps another way is to lock them in a vihara for a week. Un altro modo è quello di chiuderli in un centro di meditazione o un monastero per una settimana. I don't know how you could do it otherwise. Non so come altro si potrebbe fare. In the East you will always see parents bringing their little children, making them bow, lighting candles, they do all that. Sì, in ambiente si vedono i genitori che portano i bambini nel monastero, li fanno accendere le candele, li fanno inchinare. Yeah. It's the same with every religion, eh? Every religion. It's the parents mainly who are the ones who, you know, bring the children towards their religion, isn't it? È la stessa cosa in tutte le religioni. Mm. Sono di solito i genitori che portano i bambini a. But is that the experience of anybody here who's got grown-up kids? How old? Well, mine are 14, 8 and 6, but is there anybody here who has ones who are grown-up who all gone the other way? No, well, in my experience they haven't gone the other way, but I've never been able to bring them anywhere close to the meditation, but I don't want to force them. Translate. Yes. No, chiedeva se qualcun altro che aveva figli più grandi dei suoi poteva dare qualche consiglio. Io ho detto che non sono proprio la persona giusta perché i suoi hanno 14, 8 e 6. Io credo che quei miei non ho avuto molto successo. So we can't help you there. My mom's been pushing me to do it for 15 years. Ecco, probably un esempio. Forse la mamma di Gautam ha insistito con lui per 15 anni. Quando ha smesso lui è venuto. Questo è un buon esempio. L'unico modo forse è quello di insegnargli un metodo, sempre dirgli che è di passo, di relazionarsi con le emozioni, con le sensazioni, con i pensieri, non so. Maybe the best way is to just teach them a method, a way to be in relationship with your feelings, your thoughts, without saying that it's vipassana. Sì, o anche parlare magari anche delle proprie esperienze, però con i grandi, perché. Or even just talking about your own experiences, but this is with older children. Anche del buono fa, però almeno io con mia figlia faccio così. And that's what she does with her daughter, even if her daughter then doesn't follow in her footsteps. Indipendentemente dal portarlo o meno verso la vipassana, io credo che la cosa fondamentale sia ascoltarlo, il figlio. So the main thing, rather than trying to bring him towards vipassana meditation, is to listen to your child. Ha ha ha ha ha. And it depends on their age. 6 years old. Is the smallest. Six years old is the smallest, isn't it? Yeah. I once went to a school, they invited me to come to school. I only did it once. Una volta mi hanno invitato ad andare in una scuola. There were 6 year olds, same age. C'erano dei bambini di 6 anni. So, you know, not knowing children very well. Io conosco molto bene I bambini. So I said, okay, everybody now, I want you all to close your eyes. Ho detto a tutti, bene, adesso voglio che chiudiate gli occhi. I said, now I want you to go. I want you to feel your feet. See. Adesso voglio che proviate a sentire I vostri piedi. Taking it through the body, feeling, you see. Forget it. Scordatevelo. Yeah, forget it. Absolute waste of time. So, spreco di tempo. Yeah, I think from about the age of 7. That's good. Forse dall'età di 7 anni. At the age of 7, you can become a samanera in the order. A sette anni si può diventare un samanera, cioè un novizio. And you see them in the East, little children, but they don't meditate, you know. Non si vedono in Oriente questi bambini, ma non meditano. No, they do little jobs. When I was in one monastery, two or three of them had catapults, you know, firing at birds. Quindi niente, li vedi fare dei lavoretti magari al monastero. Dice, una volta addirittura in uno li ho visti questi bambini che avevano le fionde, stavano prendendo gli uccelli. So they don't, you know, and then very, but they're in the atmosphere, you see. This is the important of good friendship, you see. You're in the atmosphere. Sono in quell'atmosfera. Questa è l'importanza della buona amicizia. The Gaia House family weekends, you know, what they do with the children on those weekends? Yes, Gaia House, even Amaravati have children's weekends. They do what you would normally do with children. They create plays, they have discussions, they go for walks. Mm. So Amaravati do that as well? Yeah, it's very good actually. It is. Sia Gaia House che Amaravati e Vati dice sì, però lì fanno le cose che normalmente si fa con I bambini, si fanno I giochi, si fanno le recite, si fanno le passeggiate. Anche qui the Thich Nhat Hanh group also organizes family retreats. Yeah, they're very popular. Yeah. Does Amaravati does it too and will host it? The Goenka method also has children's weekends and they do, I think they do Anapana, the breathing technique, and then activity, things like that. And I think they have a book or something that they children can read, and I think they deal with sort of maybe emotions through understanding if you're angry or something. And emotional intelligence. And tying this up to the breathing technique. Quindi nella tradizione di Goenka fanno anche delle cose per I bambini e si fanno più che altro anapana sati, cioè la consapevolezza del respiro unita a magari delle attività in cui li rendono più consapevoli delle loro emozioni, della rabbia se sorge e hanno un libro che seguono anche. And of course in the UK, I don't know about Italy, but now this mindfulness is also coming into schools. Adesso nel Regno Unito questa mindfulness sta entrando anche nelle scuole. Emotional intelligence. Intelligenza emotiva. Yeah. I can understand if one wants to, you know, draw children into a Buddhist atmosphere. The point is there are so few, there's so little opportunity at the moment. So it's quite difficult to find. There are no opportunities. Just one of those situations of a small religion, really. Capisco questa esigenza che si può avere di avvicinare I bambini all'interno di una comunità buddista. Però ci sono anche poche le opportunità, questa è una conseguenza del fatto che è una religione così poco. Sì, sono pochi. In England there is in the UK there's only one Dharma school, one Buddhist Dharma school. C'è solo una scuola buddista nel Regno Unito. For juniors. Ed è solo per ragazzi più grandi. No, la scuola media. No, perché. Ah, piccoli? Yeah, to about the age of 11. Ah, fino a 11 anni, la scuola elementare. In Brighton. Next question? Yeah. Can you take the refugees, whatever, if you don't believe in reincarnation, for example? Yeah. Remember that. Se possono prendere I rifugi se non credi, per esempio, nella reincarnazione? So remember. The Buddha never actually wanted us to believe anything. Il Buddha non ci ha mai chiesto veramente di credere in niente. See, he doesn't start there. He said everything is put to us as a theory. Quindi lui parte proprio da lì, cioè tutto ci viene offerto come una teoria. And then he gives us the method to investigate that theory. E poi ci dà il metodo perché noi possiamo investigare quella teoria. And then the Dharma becomes our personal experience. Allora il Dhamma così diventa la nostra esperienza personale. Although there is the teaching of rebirth, e anche se c'è questo insegnamento sulla rinascita, if you think about it, it's irrelevant. Se ci pensate, è abbastanza irrilevante. Because wherever you are, you're always now. Perché ovunque tu sia, sei sempre nel ora. Adesso. From our point of view, there is no rebirth. Quindi dal nostro punto di vista non c'è nessuna rinascita. Or we're being reborn every second. Oh, in altre parole, noi stiamo rinascendo ogni secondo. Yeah. See, so there's no point in worrying about rebirth. Quindi non ha senso preoccuparsi della rinascita. And if a person chooses, if a person doesn't feel that that's right for them and believes in annihilation. Se una persona pensa che questo non sia una cosa giusta e quindi crede piuttosto nel nichilismo, then this should be a goal to really practice. E allora questo dovrebbe essere proprio uno spuntone, no? Un pungolo per praticare. Yeah, there's not much time. Perché non c'è molto tempo. Isn't there a difficulty with rebirth just from a PR point of view? Because Buddhism is so fantastic when you start to explore it in this violent world we live in, but it's in a way so discredited by the main idea that's associated with it, which is if you screw up, you'll come back as a car or whatever. So this has taken away people's attention from what's really good in it. And is that not something to worry about? Dice che è una cosa un po' preoccupante il fatto che spesso comunque così nell'opinione generale del buddismo c'è questa idea comunque del fatto che se fai qualcosa di sbagliato adesso allora potresti rinascere come una mucca o una cosa del genere. Quindi credere in questa cosa che effettivamente non è molto importante, però è come screditare un pochino il messaggio del Buddha che invece è molto più profondo, insomma. Well, that's why you'll find most Western teachers, especially, don't go near the topic of rebirth. Questo che vedrai che molti insegnanti occidentali non si avvicinano neanche a questo argomento della rinascita. Infatti, io non lo faccio. Very rare. Very rare. È molto raro. It's interesting because this same problem happened when Buddhism reached Japan. È interessante perché la stessa cosa è successa quando il buddismo ha raggiunto il Giappone. Because they had no concept in their culture about rebirth. Loro non avevano nella loro cultura questo concetto della rinascita. They had the idea that when you were died, you hung around as an ancestor. You know, you. No, questa idea che quando morivi praticamente rimanevi presente nell'aria così, come antenato. So you find Zen absolutely centered on the now. E quindi lo Zen è completamente centrato sul qui e ora. See, it doesn't, you know, I don't remember any of the teachings in Zen talking about rebirth. Non mi ricordo di nessuno degli insegnamenti nello Zen che parla della rinascita. It all makes the person what's happening now, you know, And does the Buddha's teaching make sense to you now? Is it improving your lives now? È tutto molto improntato sul qui e ora, quindi gli insegnamenti del Buddha hanno un significato per te nel momento presente, quindi riportano sempre l'attenzione sul qui e ora. Yeah. The difficulty comes when you're talking about karma and the consequences of actions and what happens if you get away with it in this life. Quindi il discorso però si complica un po' quando entra in gioco il discorso del karma e le conseguenze delle tue azioni. Cosa succede se tu te la cavi praticamente per una cosa sbagliata che hai fatto in questa vita? Then there's some problem in trying to understand that, unless there is some process of rebirth. Allora c'è qualche problema nel comprendere tutto questo, a meno che non si prenda in considerazione tutto questo processo della rinascita. Mm-hmm. But one overcomes that problem by saying that doing something harmful has an immediate effect on your own heart. Però uno può superare questo problema dicendo che il fare qualcosa di dannoso o di non salutare ha un effetto immediato sul proprio cuore. Mm. We only have to read people like Freud and Jung to understand what happens to us when we do something harmful. E basta che leggiamo Freud o Jung per capire cosa ci succede quando facciamo qualcosa di dannoso. Mm. We begin to suffer guilt, shame, paranoia. We become callous, unable to communicate. Cominciamo a provare sensi di colpa. Shame. Vergogna, paranoia, diventiamo molto rigidi nelle nostre relazioni con gli altri, incapaci di relazionarsi con gli altri. Jung tells of a story of a woman who came, who confessed to him that she had murdered her rival in order to marry her husband. Jung parla di una donna che è venuta da lui e gli ha confessato di aver ucciso la sua rivale in amore per poter sposare quello che era il suo marito. Mm. And she had come to a point of her life when her husband had left, her children wouldn't talk to her, and she was completely alone. È arrivato un punto nella sua vita in cui il marito l'aveva abbandonata, i figli erano andati via e lei era completamente sola. Mm. And she had come to him for psychological help. Ed era arrivata da lui per avere un aiuto psicologico. And he says in the book, I didn't feel it was necessary to report this woman to the police. Jung scrive nel suo libro che non aveva ritenuto necessario denunciare questa donna alla polizia. Because she had seen the consequences of her act and was trying to make reparation. Perché lei aveva visto le conseguenze della sua azione e stava cercando di riparare. Yeah. So there's no need really to talk about rebirth, because when we see what we do to our own hearts, even with simple mistakes, you just don't want to go there. E quindi non c'è bisogno di preoccuparsi, diciamo, delle nostre rinascite, perché quando vediamo le conseguenze che ha sul nostro cuore anche una minima azione, allora capiamo che non vogliamo ripetere quella cosa. Mm. Non vogliamo andare in quella direzione. Sì. Vabbè. Ho l'impressione che Vipassana, per l'intensità del contatto con se stessi, richieda sensibilità e anche solidità mentale. Forse per questo in Occidente è spesso confusa o associata con la psicoterapia. I have the impression that Vipassana, because of its intensity and when contacting oneself, requires a sensitivity and also a mental solidity, firmness. Maybe is this the reason why in the West it's often confused or associated with psychotherapy? Well, I think we see, don't we, that there is definitely a psychotherapy in Vipassana. Credo che riusciamo a vedere abbastanza chiaramente che c'è una psicoterapia nella Vipassana. Mm. And I think I mentioned, well, I'm going to put it aside. it depends on the type of retreat that you go to. Quindi dipende un po' dal tipo di ritiro a cui uno partecipa. What unresolved problems there are within us. E quali problemi non risolti ci sono dentro di noi? Yeah. So for some people, they need a much easier progress. Per alcune persone è necessario un progresso più facile. Yeah. And for others, they can really enter into a more, forced retreat. E altri invece possono entrare in un ritiro un pochino più rigoroso. I'm personally of the opinion that the process of vipassana is enough. Io personalmente sono dell'idea che il processo della vipassana è sufficiente. That's my own personal experience. E questa è la mia esperienza personale. But that doesn't mean to say that a lot of these techniques that the West has developed are very useful and skillful. Ma questo non esclude il fatto che molte di queste tecniche che sono state sviluppate qui in Occidente sono molto utili e molto abili. And these days, we have this mindfulness and, working with depression, mindfulness and stress, mindfulness and baking bread, I mean, so lazy. Mindfulness and laying eggs, there's everything. The chickens. Adesso abbiamo tutte queste varie proposte, di mindfulness, che in italiano non viene tradotto spesso, si lascia mindfulness e depressione, mindfulness e lo stress, mindfulness è pure nel senso di sé, fare pane, no? Mindfulness è covare le uova, anche la mindfulness per le galline, certo. Yeah, mindfulness. So it obviously has a powerful effect. Quindi evidentemente ha un potere molto forte. I think one of the dangers of therapy is that sometimes it all depends on the therapy, but sometimes you hear of people going at it for months and years and sort of nothing's happening, Uno dei problemi della terapia ovviamente dipende da quale psicoterapia parliamo, di quale si tratta. Ma il problema è che spesso le persone rimangono in terapia per settimane, mesi, anche anni e nulla succede. So I think there's a danger to that. Credo che ci sia un pericolo in questo. And in a sense that's a similar danger in vipassana. Però in un certo senso c'è un simile pericolo nella vipassana. So if after 5 years of struggle nothing's happened, then change your teacher. Se dopo 5 anni di lotta non succede niente, beh, cambiate insegnante. Go find someone else. Andate a cercare qualcun altro. That's all. Sarei. Finita. Ancora una domanda, chiacchierando. Quale potrebbe essere un programma realistico di mantenimento di questa esperienza nella nostra vita di tutti i giorni? So something that came up while we were walking, what would be a reasonable and practical way of maintaining our mindfulness in daily life after this experience here on retreat? This I have written brilliantly about on my website. If you go onto the website, you'll see tip of the day. C'è un consiglio del giorno. C'è andato su. Yeah. And I just go through the day. Io praticamente scorro la giornata. As to how you might meditate in the day, etc., etc., the whole thing of the day. Come puoi meditare durante la giornata? And there are other little pointers for being at work and just daily life. Ci sono degli altri consigli rispetto al lavoro oppure semplicemente la vita quotidiana. Yeah. So if you access that and if questions come up, just email me. Quindi se riuscite ad andarci su e avete delle domande, scrivete un'email. I mean, just very quickly, it's important to have that morning meditation. Però molto brevemente, è importante avere la meditazione al mattino. Even if it's, you know, if you can only afford 5 minutes, do 5 minutes. Se potete permettere solo 5 minuti, fate 5 minuti. But the optimum time is usually about 40. Ma il tempo ottimale è di 40 minuti. And again, metta. And direct your metta to where you're going to go during the day, who you're going to meet. E indirizzate la metta alle persone che incontrerete durante la giornata. And then during the day, keep stopping, just like you do here. Just e poi durante la giornata continuate a fermarvi, così come facciamo qui. And when you stop, enter into that abiding in the present moment. E quando vi fermate, entrate in questo dimorare nel momento presente. And see if there's any accumulation, some irritation, some anxiety. See, just let it drop for a little while. Vedete se c'è qualcosa che si è accumulato, un po' di ansia o di irritazione, e lo lasciate andare. The more often you do that, the less it accumulates. E quindi più spesso riuscite a farlo, e meno saranno le cose che si accumulano. And then when you come back from work or in the early evening, best before you eat, do some meditation. E quindi poi quando tornate a casa dal lavoro, alla sera, meglio se prima di mangiare, fate ancora un po' di meditazione. Yeah, again, if you only have 5 minutes, do 5 minutes. Se avete solo 5 minuti, fate 5 minuti. And the importance of that meditation is any accumulation during the day, that's the time to feel it and let it exhaust itself a bit. E l'importanza di quella sessione di meditazione è che se ci sono state delle cose accumulate durante la giornata, beh, quello è il momento in cui le si sentono, si percepiscono, si lasciano andare. And then a pleasant evening, and then, you know, you have to prepare to sleep. E poi c'è una serata piacevole e poi c'è una preparazione al dormire. I mean, you can't just throw yourself in bed from an exciting event and expect to fall asleep peacefully. Quindi non potete buttarvi nel letto dopo una serata eccitante e sperare di addormentarvi pacificamente. So, half an hour, slow down, listen to some music, read poetry, sing, do something. Quindi una mezz'ora per, come dire, sedimentare, insomma, per rilassarsi, ascoltare della musica, leggere poesie, cantare. Or just meditate, eh? Oppure semplicemente star seduti a meditare. The quickest way I go to sleep is I just meditate. Il modo più veloce per me di addormentarmi è meditare. At that time of night, I'm away. A quell'ora la sera parto subito. And that's it. That's the bare bones of the practice. Quindi queste sono le, la struttura di base, le ossa nude e crude della pratica. This is not eating in the evening. Was it just to have us experience this play between what the mind wants and what the body needs, or is it like actually? I mean, I feel good not going to bed stuffed. Quindi questa idea del non mangiare la sera era solo per farci sperimentare questo gioco tra quello che la mente desidera e quello di cui il corpo ha bisogno. Dice, personalmente a lui piace questa idea di non andare a letto con la pancia piena. No, this is just the tradition of the monastic order. No, questa è la tradizione dell'ordine monastico. Yeah. And the one thing that all Buddhist monks, Chinese, Tibetan, doesn't matter where they are, they all follow the same rule. È una cosa che tutti i monaci seguono, di qualsiasi ordine, a qualsiasi ordine appartengono. Yeah. And the Buddha ruled that you have to go out and search for food only at dawn. Allora, Buddha ha indicato che tu puoi uscire a cercare il cibo solo all'alba. You have to be able to see the lines on your hand. This is how you can tell it's time to go and get some food. E come si faceva a sapere quando era ora di andare a prendere il cibo? Si riuscivano a vedere le linee sul palmo della mano. So c'era abbastanza luce per yes. So you'll see monks robed up with their bowls like dogs in the traps. Vedete tutti questi monaci che sono lì pronti con la loro scodella come dei cani chiusi in gabbia. And then he said you have to eat it before noon. E poi la terza regola che bisogna mangiarla prima del mezzogiorno. And this came about because lay people complained. E questa regola è nata perché i laici hanno cominciato a lamentarsi. So they said to him, look, these monks and nuns of yours, they're coming around at all times of the day and more than once. Allora, perché questi laici si erano andati a lamentare dal Buddha e dicevano, guarda, questi tuoi monaci vengono ogni ora del giorno e della notte e a volte vengono anche più di una volta. Ah. And the monks complained. And they said exactly what we would say. The best food is cooked in the evening. E dissero questi monaci quello che diremmo noi, ma il cibo migliore è cucinato la sera. And he says, no, he said, if you want to belong to this dispensation, this is the rule to keep. E dice, no, se voi volete appartenere a questo ordine, questa è la regola da seguire. So I presume that in those days the monks and nuns just ate a very big breakfast. Quindi immagino che a quei tempi i monaci e le monache avevano semplicemente un'enorme colazione. Now, of course, in Buddhist countries, you walk out and you come back with a huge bowl and bags. Adesso, ovviamente, nei paesi buddisti uno torna con delle enormi ciotole piene, delle borse piene. Basta. So it's quite late, 9 o'clock. Tomorrow there's no need to get up till 5 o'clock if people want to ring the bell. Sì, sono i cambiamenti nella campana, quindi alle 5. If you want to get up early, of course, feel free. Ovviamente dovete svegliarvi prima.